lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Minuti primi, Onda Rossa. Salutiamo Elettrodo e le sue prove tecniche di trasmissione. Lo ringraziamo per aver finito, concluso il suo spazio in maniera puntuale, in quanto, come annunciato, questa sera continuiamo con la nostra calidoscopica. Calidoscopica fresco di frame presi dal passato. Ho usato questa locuzione così complicata e di cui nemmeno siamo poi così consapevolmente coscienti. Insomma, invitiamo un po' di persone, alcune più recalcitranti, altre più entusiaste, insomma, comunque poi alla fine tutti contenti di venire a raccontare il loro pezzetto di storia, il loro pezzone di storia, insomma, dentro la radio. Ovviamente, perché ormai siamo arrivati a 2 settimane da quel mercoledì 24 di maggio, che saranno i 40 anni di vita di questa emittente. Che proprio nel 24, il 24 di maggio del 1977, aprì i microfoni, alzò il cursore del mixer, del vecchio mixer della radio. È un piacere vedere un vecchio compagno della radio che, inforcati gli occhiali ai noi, si rimette ad armeggiare con piatti e mixerino, anche se la sensazione e anche la strumentazione è ben diversa, forse nemmeno troppo, stasera, da quelli degli anni addietro. Va bene, allora vi ricordo brevemente, così poi gli diamo immediatamente la parola, vi ricordo brevemente quelli che sono i contatti della radio: www.ondarossa.info, il sito di Radio Onda Rossa, @ondarossa.info, invece la casella postale per le vostre comunicazioni alla radio, 25 o'clock 25, scritti al numero 25 o'clock, @ondarossa.info. andiamo più piano. per sottoscrivere con questa emittente il sito vi dice tutto, andate su Sostieni, oppure 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma San Lollo. Inutile che vi dica quanto sia importante la sottoscrizione anche in questo 40° anniversario di Radio Onda Rossa, perché Radio Onda Rossa vive così grazie al vostro contributo di tutte e tutti che la sostenete. Ci dovrebbe stare qualcun altro, che spero e ci contiamo che stia con noi il 24 di maggio. E che si faccia sentire questa sera a quello che è il numero della radio 0649 17 50. Ha sbagliato traccia, come nella migliore delle tradizioni. Ah, intanto proviamo il microfono, va, così ti diamo subito. Vedi un po', un attimo, se ci siamo. Assolutamente no, vai. Nemmeno. Aspetta, ecco, vai. Eccolo. Sì. Sì, ti sento. Sento il riverbero. Vai, vai, vai, vai. Saluto i compagni e le compagne che ci ascoltano, quelli che ci ascoltano così perché sanno che c'è un po' di musica in giro e comunque. Ci sentiremo di qui a breve per un'oretta e mezza. E quanto ci vi racconto qualche cosetta che mi ricordo. Abbiamo iniziato con You'd Be Great, da un disco che siamo rimasti molto contenti quando l'abbiamo trovato ormai 15 anni fa, insomma, che raccontava proprio la storia della Better Youth Organization, raccontava appunto in termini proprio che era una collezione di tracce che ripercorreva proprio quella storia, e che era appunto un collettivo poi di band della costa californiana, insomma, della dove militavano band come Youth Brigade, Bad Religion, Social Distortion, Seven Seconds, insomma, più ne ha veramente la storia di quel panorama. E mi veniva in mente proprio per iniziare questo racconto di questa sera, proprio di iniziare da quel punto lì, da quella California di quegli anni lì, e di come appunto poi sì, in Italia, a Roma, non c'era molto di questi suoni che arrivavano e di come fosse difficile già quindi in quegli anni, i primi anni 80, potersi appassionare a questi suoni in un mondo che, andiamo ripetendo in queste puntate, non era così vicino, così piccolo come quello di oggi con la rete e con appunto. Certo, certo, è vero. Sembravano veramente delle realtà molto, molto più lontane di quelle che ci possiamo, alle quali ci possiamo approcciare adesso, con gli strumenti diversi. Le mitizzavamo pure un po', forse. Ed erano anche mitizzate, sì, però era bello. Era comunque abbastanza bello mitizzarle in quel momento, perché forse era anche un po' giusto, perché comunque erano cose diverse rispetto a quelle che giravano qui. E quella California degli inizi degli anni Ottanta, che veniva, forse ha prodotto i suoni più belli. Anche rispetto agli anni 60, agli anni 70, perché Social Distortion, dischi meravigliosi, Youth Brigade, Bad Religion, cioè dischi che veramente ancora adesso li metti sopra e suonano, li metti, fanno la loro sporchissima. Ma poi storie, sono dischi che hanno storie dietro, no? È la musica che ci piace mettere a noi, no? Sì, sì, poi insomma parliamo comunque di un periodo che era immediatamente dopo al punk 77, insomma del 77 inglese, che arrivò in questi luoghi con una rabbiosità e una concretezza ancora sì, maggiore di quella che si era sviluppata nella Gran Bretagna qualche un lustro prima. Appunto in questi primi anni. Hai detto bene, proprio la concretezza del punk americano californiano. Del punk americano, sì, che non badava troppo a creste, chiodi, no, a orecchie, andava vestito con le camicie. Pensiamo pure agli Oscar Du, insomma, quello, certo, che hanno rappresentato. Certo. Già, cioè, dal punto proprio, di... proprio come riferimento culturale per, certo, migliaia di giovani, insomma. Eppure in quegli anni esprimeva un desiderio di ribellione, di fare le cose da soli, appunto, certo, del do it yourself, certo, di cui parlavamo prima, certo, che è stato poi seminale, nel senso che poi ancora oggi vediamo di quei frutti, ecco, di quei semi che sono stati bello, bello, bei suoni. E quindi voi come vi ponevate? Cosa c'entri tu con questa storia di... Cosa succede a metà degli anni Ottanta all'incirca? Beh, succedono diverse cose. Qui da noi, qui sotto, intorno a sto quartiere, nelle vite nostre, sicuramente nella mia, in quella di altre persone, in quella di Sandro, del Patata, della gente che cominciò a girare qui in radio improvvisamente perché volevano mettere la musica che ascoltavano. E cominciò tutto un po' così, il mio arrivo alla radio, ma l'arrivo di tanti anche in quel periodo. La musica rappresentava delle storie e la musica era anche quello che poi si cercava di fare. Mm-hmm. Era questo il passaggio importante, e quindi fare la trasmissione musicale era continuare in qualche modo a vivere la politica che vivevamo magari per strada durante le lotte o quando c'era da fare delle riflessioni, e quindi è tutto era un continuum, e per questo che venire a fare la trasmissione qua era il massimo che c'era per noi in quel momento. Ok. So che hai preparato un numero abbastanza limitato di tracce, quindi ci atterremo a quelle, sì, e credo che ci spiegherai pure il motivo di ogni singola scelta. Beh, sì, magari lo legherai appunto a questo racconto, a qualche racconto, anche al perché poi magari quel tipo di suono, quella traccia in particolare, quella incisione su vinile, diciamolo, sul vinile stasera andiamo, e ringraziamo in questo Attica Blues che ha ripristinato alla grande. Infatti ringrazio anch'io, che sennò sarei stato ancora più spaesato di quello che so. Orfano, certo, invece la vecchia plastica. E comunque quello che dice Stefano, in realtà lo volevo dire mentre sentivamo tutti insieme questo brano che adesso vado a mettere.

presence near, or hear a voice that in your mind will lie. Just be thankful that you're not alone, you've got some company from a big marine boys call camouflage. Fino all'ultima nota, mentre appunto quasi sull'attenti, sì, è una sorta di inno quasi, sì, sì. Mentre vanno Bad Religion, appunto, di cui parlavamo sopra, in versione un po' più moderna, anni 2000, insomma. Allora, Camouflage, quindi, da dove esce fuori? Camouflage... Star Ridgway e Camouflage. Star Ridgway aveva già cominciato, l'avevamo tutti conosciuto con i Wall of Voodoo, e poi fa questo disco che è un disco fatto quasi esclusivamente per sentirlo di notte. Camouflage è un esempio lampante, la copertina pure ce lo ricorda, fra l'altro anche abbastanza bella. E questa canzone racconta diventò una sigla, e poi lo spieghiamo perché, sì, diventò una cosa, io non la so, me diventò la una sigla, ma... diventò una sigla in maniera così, la proposi e con Roberto andò e rimase per molto tempo, sì, sì, fino alla fine. Sì, poi io ho un CD, ne giravano, sì, 50 versioni di sta, sì, Camouflage, sì. Poi racconteremo pure qualche cosa sta roba, sì, vai. E la canzone così racconta di questo fantasma, uh-huh, che si aggirava vicino ai soldati americani durante la guerra in Vietnam, o comunque quello che qualcuno raccontava di aver visto come durante o fasi di delirio o fasi di sconvolgimento, durante, anche per sopportare, immagino, una situazione come, certo, quella. E quindi Camouflage viaggiava così con questo alone di mistero nella giungla, e alleviava in alcuni momenti alcune situazioni, senza però far capire mai bene se fosse un elemento che era reale o meno. E qui comunque, insomma, il disco, la musica lo racconta proprio in maniera perfetta. E Bad Religion, sentiamoceli però. Sì. I'm not joking. Rieccoci di nuovo in diretta. Mentre aspettiamo, però, tranquillamente andiamo avanti. Dicevamo un altro così aneddoto che raccontiamo riguardo alla sigla Camouflage. Era rimasto in qualche occasione, adesso non ricordo né bene l'anno, né la circostanza, né il momento, né la stagione, né nulla. Però vi racconto il fatto. Era rimasto sto vinile, sto 33 giri, in radio appoggiato da una parte, perché appunto poi succedeva pure che nel marasma della notte, insomma, c'erano bei casini con i dischi e anche fra di noi, per cui si usciva abbastanza, alle volte non troppo proprio savi, sì. E quindi sì, era normale che ci si poteva dimenticare qualcosa. E la settimana dopo o venni io, insomma, rimase una quindicina di giorni questo disco, e praticamente per 15 giorni il disco andava almeno Camouflage, no, il disco Camouflage andava per almeno 10 volte al giorno. Uno degli autori del misfatto, cioè uno dei più appassionati ripetitori dei Camouflage, era il buon Paolino Prozac, che lo mise proprio a rotta di collo. E praticamente diventò un tormentone per 15 giorni, e qui andava a stato male. Camouflage che gira in automatico, perché comunque qualche traccia del passato di Radio Onda Rossa rimane sempre. Noi lasciamo sempre una traccia dentro Radio Onda Rossa quando ci muoviamo. Questa è la cosa che ho notato in tanti anni. Quando ci muoviamo, quando facciamo qualcosa, qualche cosa rimane sempre. Qualcuno raccoglierà per forza quello che in qualche misura abbiamo così tracciato. E quindi noi stiamo ascoltando invece adesso un'altra cosa che quasi ti sei pentito, no? Di non aver voluto. Eh sì, l'abbiamo nominati un attimo fa, mentre parlavamo della scena californiana, e Stefano ha portato uno dei dischi più belli degli Husker Du, Warehouse Songs and Stories, e ha scelto uno dei brani, comunque sono tutti belli. E questa storia di Camouflage dimenticato da Roberto qui in radio, sinceramente non la sapevo nemmeno io, però è andata così. Allora, ci dovremmo essere, ci sei? Qualche misura mi ascolti, riesci ad ascoltarmi? Ci stai? Pare di no. Pare che sia tipo caduta. Tipo però. Io ci sono, però. Ah, eccolo. Eccolo. Allora, io. Bella, sa? Non so se voi mi sentite. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Aspetta. Ciao, ecco. Ciao, buonasera a tutti. Ciao! Ci stai? Pronto? Secondo me si è incartato, perché dice che c'aveva lo streaming da una parte. Però sembrerebbe. Ma arriva con un ritardo pazzesco. No, ma lo streaming lascialo perdere. Parla in diretta con noi. Poi semmai parlo in diretta con voi. Sì. Parlo in diretta con voi perché l'esperimento era davvero molto arduo. Diciamo che avevo l'auricolare sul orecchio sinistro in streaming e sul destro il telefono, ma ovviamente il telefono era molto più veloce. Vabbè, quindi, insomma, siamo riusciti comunque a così a fare un salto indietro, ma anche un salto in avanti, chissà, insomma, di una venticinquina d'anni, ecco. Ma io sentivo che parlavate del disco di Camouflage, che voi forse non so se sapete o ricordate, ma chiaramente io posseggo l'originale, insomma, di quel disco, e così come no, pure buona parte, dice, se non tutti, gli originali in vinile che aveva Roberto. Ah, sì. Però ne parlavamo prima e diceva appunto Massimiliano che in realtà la prima sigla l'ha portata lui, ce l'aveva lui. Sì. Poi Roberto se l'è procurato in un secondo momento. Sì. Mi ricordo così almeno. Quindi dovrebbe essere quello che appunto rimase due settimane. Rimase due settimane e fu mandato a ruota praticamente. Adesso non vi sento più un'altra volta. Pronto? Sì, ci siamo. Pronto? No, noi ci siamo. Siamo a palla. Dicci tu, ci sei? C'è qualcosa che non quadra? Pronto? Sento malissimo adesso, di nuovo come prima. Adesso come va? Adesso meglio, meglio. Adesso meglio. Sì, forse sì. Saturavo troppo. Va benissimo. Allora, dicevamo, di quegli anni, senz'altro non avremmo avuto queste robe qui, cioè tipo ascoltami attraverso lo streaming, mi chiami attraverso il telefono e il radio, insomma sarebbe stato tutto molto più... Io sento scatti, adesso sento di nuovo. Senti di nuovo, sì, deve essere qualche... Al solito, insomma, abbiamo il mixer che dovrebbe essere revisionato. Dicevano, un periodo, una fase in cui le cose che stiamo facendo stasera sarebbero state oltremodo difficili, perché mandare una telefonata in diretta significava andare nello studio di là, perché la regia stava da una parte, il telefono dall'altra. E il telefono in realtà era un telefono in viva voce che andava con un microfono. Pazienza, mi sembra una diretta un po' difficile, io non sento di nuovo. Non senti di nuovo. Vogliamo provare a richiamare, magari? A rifare il numero? Allora, vediamo se va un po' meglio. Pronto, io mi sento bene adesso. Oh, finalmente, forse ce l'abbiamo fatta. Dicevo prima, ripeto un po' il concetto molto brevemente. Quello che stiamo facendo, che proviamo a fare, infatti già mi sono smentito da solo, una volta non ci sarebbe riuscito bene, infatti manco adesso ci riesce bene, Radio Androssa per questo non cambia mai. Però dicevo che fare mandare una telefonata in onda era oltremodo difficile, perché bisognava andare nello studiolo della, mentre in regia, poi c'era un telefono viva voce con un microfono e si mandava la chiamata in diretta così, sicuramente sarebbe stato difficile. Mandare e ascoltare lo streaming della radio, perché non c'era, anzi molte volte proprio era difficile ascoltare la radio perché c'era Radio Vaticana sopra. Insomma, tutte queste robe qui, però si faceva con una passione, con un entusiasmo, con una forza, con una creatività e una incredibile appunto, come insomma, metti gli aggettivi che vuoi, metti gli aggettivi che vuoi. Sì, no, aspettavo un tuo commento. Ah, da me, dici? Sì. Ma vabbè, sì, si faceva, intanto si faceva, diciamo, con fiumi di alcol in sottofondo, forse questo non è mai passato. C'era tanto, come si dice, autogestione nella capacità di arrangiare microfoni che non funzionavano, cuffie che avevano jack difettosi, altoparlanti mezzi rotti, dischi che saltavano, quindi c'era una grande capacità e voglia, diciamo, di sperimentare anche delle cose che, tutto sommato, con strumenti analogici prima si sperimentavano molto anche a casa, insomma si facevano per esempio degli spot che si preparavano e si predisponevano a casa con le casse di registrazione, con la cassettina, sì, con la cassettina che poi si ascoltava, diciamo, in macchina venendo in radio, abbastanza orgogliosi, insomma, del montaggio che si era fatto, una roba estremamente rudimentale che però invece ci dava grosse soddisfazioni. Però soprattutto c'era questa... Beh, io, per quanto riguarda me, perlomeno c'era tanto tempo a disposizione e voglia di stare insieme, insomma, quindi voglia di ascoltare musica. Cosa che è mancata, ad esempio, questa sera. Altrimenti saresti venuto. Ma a me, francamente, non manca soltanto l'aspetto della trasmissione, ma manca anche l'aspetto dell'ascolto, che ormai, francamente, sono un po' imbarbarito, insomma, ecco, tutta quella capacità, disponibilità per cercare nuovi suoni, Sì, è un argomento pure che volevamo affrontare proprio con Massimiliano. Senz'altro, insomma, fare una trasmissione in radio richiede, appunto, sembrerebbe sempre che dici, vabbè, porti una cassetta dei dischi che ti sei ascoltato a casa, no, richiede invece la presenza comunque non solo in radio ma comunque nella scena, la capacità di frequentare i concerti, la gente che te fa ascoltare i dischi, perché poi appunto non tutto è YouTube, e credo, io ancora la penso così, insomma, non funziona così, non funziona con semplicemente il supporto telematico che ti suggerisce e ti fa arrivare le cose, ma serve proprio invece la capacità di creare in qualche maniera, come poteva essere, ne parlavamo prima e magari introduciamo anche l'argomento, la redazione di Rumori Molesti all'epoca o la stessa trasmissione Next Time, un momento, un luogo, un punto che è in grado di aggregare, cioè di essere non solo ascoltato eccetera eccetera, ma pure che appunto c'è la gente che ti propone musicisti, compagni, movimento, quello che ti pare, gente che ti viene a proporre, che riconosce in te comunque un luogo dove poter amplificare in qualche maniera i propri suoni, le proprie creatività, le proprie ambizioni in qualche misura. E è un po' questo, insomma, quello che si creò in quegli anni, ne parlavamo. Sì, Sandro probabilmente se lo ricorda come noi, era uno dei ricordi legati a una situazione più che a un suono, a un'immagine che volevo riportare, specificamente legata credo quasi sicuramente alla prima riunione della redazione musicale, chiamata così a raccolta da una locandina molto carina che attaccammo in bacheca in radio, Rumori Molesti, e mi ricordo che a un certo punto non si capiva più niente, erano venute 30 persone e sembrava che di lì a poco bisognasse fare 10 trasmissioni radiofoniche nuove, cioè stava succedendo una cosa che poi Luca con l'Onda Rossa Posse insieme a Castro X ha rimesso insieme dal punto di vista dell'hip hop militante, ma che comunque era un'esigenza, cioè arrivavano ragazzini e pischelli in radio e quella è una cosa bella da ricordare. Immagino che pure tu, Sandro, vorrei dire qualcosa, insomma. Sì, no, vabbè, io intanto mi ricordo che creammo diverse fanzine in quel periodo, e io credo che l'aspetto perlomeno per me più coinvolgente, più importante, insomma, quello che ha determinato lo stimolo più importante, insomma, di quel periodo, era un fatto secondo me sconvolgente, cioè in realtà l'ascolto della musica, la produzione della musica dal vivo e su disco, e anche poi la ritrasmissione radiofonica di quella musica erano un unico contesto, cioè in realtà riuscivi a vivere tutte e tre queste dimensioni, che se ci pensi è un fatto che capita raramente e comunque a poche persone. Ecco, a noi stava capitando una filiera estremamente corta, insomma. Esatto, una filiera corta, ma soprattutto eri lì ad ascoltare, ad apprezzare in ascolto delle cose che magari erano sperimentazione del giorno prima, e mentre le ascoltavi, diciamo, il giorno dopo, la sera stessa, le mandavi in onda per radio. Insomma, era un fatto, se ci pensate, sconvolgente, cioè una cosa che credo piacerebbe a molti. Ecco, io ricordo davvero con piacere, insomma, questo come un aspetto determinante e molto stimolante. E forse quello che diceva ancora di più Massimiliano all'inizio, che tutto questo sinergia, chiamiamola così, con magari un linguaggio più moderno e anche più brutto, in realtà era estremamente, era complementare, era alla vita che faceva, alla vita e alla politica, sì, che sì, si faceva, cioè non c'era poi distinzione, nel senso che poi quello che te esprimevi con la musica è quello che fino al giorno prima si sarebbe espresso, forse questo fu il passaggio fondamentale, ma non con la musica, con tutto questo complesso che hai descritto te, che era appunto una cosa più complicata che la semplice scrittura di un brano musicale, era assolutamente supplementare a quello che avresti fatto fino al giorno prima con un volantino, con un manifesto, che comunque non si sarebbe letto nessuno, che comunque cominciava a mostrare la corda, no? Rispetto a un modo di comunicare e di far politica che si era fatto, validissimo per carità, che però cominciava, no, a essere un pochettino obsoleto a cavallo fra gli anni 80 e 90, mettiamola. Beh, era fondamentalmente era uno dei temi con i quali noi delle redazioni musicali iniziavamo a far passare il messaggio anche dentro la radio, che tutto sommato anche il contesto musicale aveva una dignità, diciamo, per appellarsi a un meccanismo di controcultura anche quello, e in effetti diciamo che noi facevamo anche questo, nel senso che manifestavamo la nostra diversità non solo nelle piazze, nelle strade, attraverso dei contenuti politici, ma anche e soprattutto perlomeno in quella dimensione, in quell'ambiente circoscritto quanto volete, ma comunque molto ampio, in cui si ascoltavano cose diverse, si cantavano cose diverse, si proponevano dei luoghi per fare ed ascoltare musica diversi. Insomma, era un elemento di rottura che noi, secondo me giustamente, abbiamo tentato e ci siamo anche riusciti di valorizzare all'interno della radio. Ascolta, sicuramente non avrai avuto modo e tempo di pensarci, però no. buttata lì, se dovessi, Camouflage l'abbiamo messo, se dovessi così mettere una così. Traccia, esatto, di, beh, non è, dire, non avrei dire dubbi. Quello che abbiamo detto, bravo. Non avrei dubbi. Allora c'è stato un periodo. Calcola che dobbiamo andare a cercare quasi sicuramente su YouTube, perché non è che ci abbiamo. Certo. Immagino. C'è stato un periodo in cui è passato un concetto che era quello della presigla, ovvero la sigla finale prima della sigla finale. Che è un concetto assurdo di per sé. È un'aberrazione. È proprio da rincoglioniti. È un'aberrazione, che però ne siamo orgogliosi. È un concetto. Ma comunque mi ricordo. Scusa, ma sta cosa l'hai portata a te. Questa me la ricordo. La colpa è tua. sì, di questo in particolare me ne assumo la responsabilità. Effettivamente è un concetto ridondante, se vogliamo, perché insomma era un po' un loop intorno a un paio di brani. Comunque la presigla alla fine, per un bel periodo della trasmissione, era il brano degli U, Babbo Rile. Peraltro no, invece io ho detto Morning Tiger, vedi, invece no. Io invece ricordavo Porcupine Tree, non mi ricordavo, no, non è mai stata, no. No, la presigla effettivamente è stata per un periodo abbastanza lungo Baba O'Reilly, The U, e per un altro periodo sufficientemente lungo c'era Maureen Tagan con i Velvet Underground. Come si scrive Baba O'Reilly? Baba staccato Baba. Apostrofo o staccato O'Reilly. Bella canzone, ammazza, bella canzone. Va bene. Nella versione degli U. Benissimo. Senti, ma mentre la cerchiamo... Sì. Mentre la cerchiamo, che vogliamo mandare un pezzetto? Dai. Vogliamo mandare un pezzo? Il tuo? Te lo senti così in diretta dal telefono? No, breve, non tutto, dai, che tanto è corta. Va bene, dai. Mi ricorda piccole storie di piccole città, specialmente da una parte, specialmente da guardando le piccole città degli Stati Uniti. Ce la sentiamo insieme. Volentieri. Vai. Senti che fruscio, quei piatti. Non va. Allora, intanto ci sentiamo quest'altro. Sì, pezzetto. Abbiamo risolto il piccolo inconveniente, ti abbiamo lasciato un attimo appeso lì, e adesso sentiamo quello che ci ha proposto il Conte. Va bene. My parents live in the same small town. John Cougar Mellencamp, Small Town, che dici, sa? Bellissima. Vabbè, erano le ballate, insomma, che facevano scattare il moscone che volava, le luci che si spegnevano, insomma, dai, queste erano le atmosfere. Ma tra l'altro, appunto, ci trovavamo in un periodo, diciamo prima, post 77, in cui appunto c'è sta l'hardcore, parlavamo prima dell'hardcore californiano essenzialmente, e allo stesso tempo, proprio da quell'ambiente, lo stesso come si dice, milieu, no? Usando un termine sofisticato. Mazza quanto è co. Questo me lo sono imparato, devo ridire. Da quello stesso ambiente poi in realtà si è fatto quello che si fa ancora oggi, che ne so, che ha fatto Billy Bragg, piuttosto che ha fatto Justin, che hanno fatto i Gang, che ci abbiamo pure stasera, cioè di passare poi dal punk alla ballata, che è quasi un continuum, quasi un passaggio obbligato, nel momento in cui a un certo punto te dal poco scatenato sotto il palco vuoi passare a esprimere dei concetti che sono gli stessi di prima, però un po' più spiegati meglio, insomma, spiegati in qualche modo, ecco, più, prima sì, era più chiariti, sì. Esatto. E non lo so, la presigla, mettigli la presigla, mettiamo la presigla e poi non lo so, dimmi te. Vai. Ma io pensavo avete citato ballate, insomma, e quindi qua si potrebbe spaziare dal fronte statunitense a quello australiano. Di che siete dotati da quelle parti? Ma a guarda, parte che c'è YouTube, giustamente, quindi facciamo che sì, no, a parte facciamo che vieni qua dal vivo una volta e rifacciamo tutto, perché diventa oltremodo difficile. Invece sappiamo che una cosa è quella certa che sto facendo in questo periodo, in cui invito compagni e compagne a ritornare, che sono mancati tanti anni dalla radio, eccetera. Tutti e tutte c'hanno, alcuni devono essere, appunto, diciamo prima, incoraggiati un po' di più, no? Bisogna indorargli da meglio, insomma, spingersela un pochetto, invitarli, farli venire, eccetera. Lamentele, non lamentele, troppo tardi, cioè, tutti quando arrivano poi qua poi si divertono. La cosa, una cosa che appunto poi è probabilmente la forza di questa radio, è che poi appunto poi in realtà aprire i microfoni e saper confezionare in qualche maniera una scaletta, una trasmissione, una playlist, chiamala come te pare, è qualcosa che poi ti dà soddisfazione e ti diverte. Io peraltro, a proposito di scalette, ho ancora la cartellina in cui conservo gelosamente, diciamo, le scalette, soprattutto che per un periodo io ho fatto, Roberto per sempre mi fida, insomma, ma che io facevo per il mio pezzo di trasmissione. Perché poi andavano a finire nel, perché appunto poi Roberto era irruente, quindi ti interrompeva e la scaletta andava a cagare, insomma. Esatto, soprattutto negli speciali, non so se vi ricordate gli speciali Babbo Natale, gli speciali estivi, quelli di Ferragosto. Il concorso Bozzo del Patata, insomma, sì, ci sono delle cose straordinarie. Tutta una serie di racconti che potrebbero interessare tutta la notte. La 24 ore su Jimi Hendrix a 20 anni dalla sua morte. No? Adesso, mamma mia, sì, sì. Va bene. Tirate interminabili. Baba O'Reilly, l'abbiamo trovata, la mandiamo. Ok, grazie, ci aspetti, grazie. E poi così facciamo i saluti conclusivi, dai. E ci appunto diamo appuntamento senz'altro al 24 e chissà che appena ti libererai dagli impicci. Va bene. Thank you. Che robetta. Sì, siamo alla fine, YouTube ha finito, quindi va bene. Sì, senz'altro, sì, era una di quelle cose che appunto, come dici te, ti fa fare, non lo so, potere proprio del sì, suono. Sì, quello... E questa è roba che si spalanca la finestra e si urla a squarciagola, insomma, è roba spettacolare. No, ma proprio la capacità di farti fare dei salti nel tempo, cioè avremmo potuto benissimo essere appunto 25 anni fa, perché è più degli odori, più dei sapori, più di qualsiasi altra cosa. Risentire un brano musicale ti fa rivivere le medesime sensazioni. Sì, poi certo. Il tempo non passa. Il tempo non passa perché poi dipende sempre da come, no? Le persone s'approcciano, no, a questioni del genere. È chiaro, per me penso che sia veramente aprire una finestra e prendere l'aria, voglio dire, respira profondo, è questo, è ancora questo, penso che lo sarà ancora anche per il futuro. Comunque sì, bella Sandro, a presto. Sono contento che vi sia piaciuta. Va bene, dai, allora ci aspettiamo, ci auguriamo di aspettarci il 24, chissà, sempre qua sotto, qua sopra, insomma, comunque nei dintorni della radio, chissà che non riusciremo anche a ritagliarsi, come dicevamo prima, pure uno spazietto al mixer per rubare uno o due tracce al gran marasma che ci sarà. Comunque 40 anni di Radio Onda Rossa, non so se vuoi fare gli auguri, che poi sono sottintesi. Tanti auguri rossi, insomma, tanti auguri a tutti, tanti contro auguri a tutti. Questo è l'unico augurio che ci si può fare per i prossimi 40 anni, insomma. Benissimo. Sperando che duri ancora così. Benissimo, durerà, senz'altro. Va bene. Gente, buonanotte a tutti. Ti ringrazio e a presto. Buonanotte. Grazie, ciao, buon ascolto, ciao. Allora, abbiamo salutato il Caronte, l'altro conduttore storico di Next Time, che fu appunto una trasmissione che andò in onda dal, ce lo vuoi ripetere un attimo? L'abbiamo già ripetuto altre volte in altre circostanze. Non mi ricordo mai l'anno d'inizio, io credo dal 1983-84 circa. Cominciò ad andare in onda. Comunque, insomma, veramente la notte dei tempi. Eravate conduttore te, Roberto Patata. Sì, io e Roberto poi. Subentrò Caronte verso la fine degli anni 90, penso 97, proprio perché te dasti forfè sì, per personale, motivi sì, legati a storie anche personali, alle vicissitudini del momento. Mancanza di voglia, eccetera. Anche se poi. E poi dopo invece, dopo qualche tempo, questa voglia ritornò e poi andammo avanti addirittura in quattro. Mi ricordo, un periodo. Per qualche periodo, poi vabbè, poi appunto come poi tutte le situazioni, pure quella di 25 O'Clock, di tante altre trasmissioni della radio, alla fine diventa un collettivo nel collettivo, per cui poi in realtà ci collaborano un po' tutti, certo. Veniva venuto Erduca, veniva il Bambi, insomma quasi ogni sera c'era comunque qualcuno che passava per salutare, si fermava due o tre tracce, insomma, e poi andava via, insomma era comunque un luogo di sempre di incontro, di scambio, anche perché appunto poi la radio fra il sopra e il sotto era, c'era un legame, era un tutt'uno, era un tutt'uno, e effettivamente certe sere si faceva più a apri e chiudi la porta che altro sì. Però questo aveva un significato, forse adesso ce ne rendiamo più conto rispetto a quel momento, ci rompevamo pure un po' le scatole, certo. Però invece fosse importante, questa cosa legame. Perché era un era una situazione viva, insomma, e denotasse proprio appunto di essere un luogo appunto importante, centrale per la vita sia culturale sia politica sia musicale, insomma delle situazioni, e di come appunto poi questo quartiere fosse in realtà attraversato, fosse centrale proprio rispetto a tante storie. Allora, abbiamo messo i REM. Abbiamo messo i REM, ve la racconto brevemente perché Stefano quando mi ha chiamato stasera. Per stasera, fra l'altro, lo ringrazio ancora, ma insomma, ma più che altro per la passione ancora che c'ha nel, per esempio, nello sbattersi a chiamarci, a convincerci, a me ci è voluto poco, ma Stefano lo sa, ma insomma, però comunque di questo lo voglio ringraziare. Però una delle cose che mi ha detto, raccontiamole, è legata a un suono e è un evento di quegli anni che si può anche raccontare. Fu proprio il rientro in radio con in mano il vinile che Stefano ha messo adesso dei REM, che era il primo disco Murmur, e che ascoltammo letteralmente in diretta in anteprima, perché era quasi sicuramente in un'anteprima, perché non era un disco di importazione comprato al negozietto dei dischi che poi diventò grande, che era Disfunzioni quando stava sulla stradina quella certo, storta, la prima Disfunzioni a stanzetta, o pagai pure un sacco di soldi, ma lo ricordo ancora, certo. E mettemmo quel disco e il primo album dei Violent Femme tutta la sera. È casuale, ma è straordinaria sta cosa. La scaletta fu REM e Violent Femme. Io non immaginavo che tu l'avresti portato, era possibile comunque. No, ma perché questo era una cosa che mi ero appuntato. È stata un'opera in questi anni, appunto, poi di andare a riallacciare, ricucire, andare comunque quello che dicevamo prima, cioè chi dentro la radio butta un semino alla fine questo cresce, insomma, e funziona così, e per fortuna finché funzionerà così la radio ci sarà anche per altri 4.000 anni, certo, abbiamo detto certo. 40, 400 diciamo, noi bene. Esageriamo. Allora, quindi che cosa ci ascoltiamo? Adesso niente, pensavo a una storia, è un ricordo legato a questi 40 anni, quelli più vissuti da me direttamente, e rispetto ai quali il ricordo è più vivo, E c'è un pezzo legato a un cantautore, inglese, che ha una voce bellissima, ancora suona, si chiama Billy Bragg, e ha un sogno che in quegli anni in Centro America coltivavamo e tenevamo strettissimo, che era quello del Nicaragua. Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Drianquien. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamaga. Era ora che a sos libre Nicaragüita, io te quiero mucho más. Era ora che a sos libre Nicaragüita, io te quiero mucho más. La lucha continúa. Shadow escaping from the bamboo leaves. Yeah. Yesterday there's more footies getting up on the roof. Told me that I wasn't busy. Memories, hear your dream. The tiger isn't ready to leap through the rain. A fire while this struggle is broken out right here inside of. It was the only days perfect. Cause all is the day you wait, and I'm satisfied as I am. Let me go. Is that a way down here? Your clothes are tearing, your clothes are tearing, and my soul, the tiger is ready to leap through the rain. A fire will be staggering. Inside of me. 23:59 Radio Onda Rossa, 25 o'clock, entra nell'ora rubata ai ritmi del consumo e della produzione. And she hated me because of the way I welcomed the wine. I went up to the river. Gang. Questi ragazzi qui vengono dalle Marche. I fratelli Severini. I went down the river. said she was ambitious, so she accepted the process. Down on the disco floor, they make their profit from the things they sell to help you cover, and the robbers you hide in your top left pocket. Eccoli dal vivo, ne parlavamo poc'anzi, Gang of Four, praticamente in formazione stravolta, non è rimasto praticamente più nessuno della band originale, chi è rimasto? Andy Gill è l'ultimo che è rimasto, e ne parlavamo proprio a microfoni abbassati, proprio del fatto che ci chiedevamo appunto, ma Gang of Four quando nascono? Primi anni 80, così, no, forse addirittura 79, così. Ecco, su un quesito di questo genere ci si poteva stare pure una notte intera, sì, perché sì. O comunque ridandosi appuntamento alla settimana successiva, sì, che ci si bisognava in qualche maniera documentare, bisognava informarsi, cercare una rivista o quantomeno invece no, adesso non come c'è, hai fatto tu? Più la SASP, si sei girato boh, ecco tolta la curiosità e appunto pure i grossi scazzi che c'erano poi su queste cose sono venuti a mancare. È qualcosa di cui siamo veramente nostalgici. È vero, mondo è vero. Senza internet, senza cellulari, senza ste robe qua. Però vabbè, ce ne faremo una ragione. Comunque io adesso manderei un brano, per me è l'ultimo, non so, poi Stefano sicuramente forse chiuderà. No, io pure chiuderei, ma dicendo appunto mettiamo un sottofondo e... Volevo salutare tutti i compagni che ci hanno ascoltato e salutare questo posto che mi è così caro comunque e che mi ha così segnato la vita, insomma, che è importante ricordarlo tutti insieme. In occasione di un festeggiamento del tutto legittimo, che 40 anni una realtà come questa, nonostante i cavi, i frusci, insomma, è un risultato nonostante chi ci vuole male veramente straordinario, oltre a quelli dei nemici che ci vorrebbero, certo, assistire, certo, e certo, ci hanno provato in tutte ci le sono maniere. Sempre stati e purtroppo resteranno, ma comunque insomma le spalle sono larghe e io metto un pazzo che andava in giro coperto da una testuggine e si faceva riprendere fotografato in una copertina, e il nome è Julian Cope, il brano che scelgo stasera per salutare questa radio e augurargli ancora tanti e tanti anni di vita è Trampoline. Arrivederci. city's so dangerous. People, they're all going mad. There's something strange in the air. Something strange in the air. Boy's head just for a stupid parking car fight. We're in the age on 8-foot-3. We're in a rage for what is not worth. Our rage for what is not worth. But hate is a precious feeling. We must preserve it for our real enemies. You know I'm not a peace and love guy, but all this doesn't mean anything to me. I said it is a precious feeling. We must preserve it for our real enemies. You know I'm not a peace and love guy, but all this doesn't mean for free. C'è chi odia la libertà. Probabilmente dietro questa breve così osservazione c'è forse l'interpretazione pure del rogo alla famiglia Rom, al camper quest'oggi. Forse c'è chi odia la libertà di qualcun altro. Va bene, invece dovete amare quella che è la nostra libertà, la libertà di Radio Onda Rossa, che vive appunto libera nell'etere da 40 anni grazie a tutte e tutti voi. E per cui andiamo a ricordare brevemente le iniziative di festeggiamento per i 40 anni della radio. 19 maggio si inizia, anzi si continua, al Forte Prenestino con dalle 23 in poi serata Gothic Electro Industrial, Winter Severity Index in concerto, aprirà la serata gli Artica e poi a seguire DJ set Gothic Minimal Dark Wave Industrial con trasmissioni che ben conoscete e curate da altrettanti conduttori elettrodo di prove tecniche di trasmissione Noctibus Panis, DJ Mittengeisen di Giardino Violetto Baso, e DJ Skillar Black Door. Quindi That was the moment when I understood. Il giorno successivo, Onda Rossa Gialla e Verde. 40 anni di Radio Onda Rossa, B-Bash, Radio Torre Sound System, Country, Contramina, Tani. Dai pure te, Lampadred Seco. Bentornati. Morfire, B1, Fabio B e Gianni. Pegoz, Auta, Villa Adaposse, quindi serata reg. Sabato 20 maggio, Strike SPA, via Umberto Partini 21. Continuiamo. Ancora il Forte Prenestino. Techno Live Set con Warby Arfegoff, Jack Berlin e Awona. Almeno credo che si legga così. Drone, Jack Berlin. Quindi 27 maggio al Forte. Techno Live Set per la radio. Vi ho lasciato, non vi ho detto, del 24 maggio qua sotto, qua sopra, insomma qua. Presentazione per il quarantennale del vinile rimasterizzato di Onda Rossa Posse, Batti il tuo tempo. Questa la leggo perché ci sta Militantà e vabbè, ci sta Lughino, bella DJ Banana. Banana, dai, un po' di contegno. Ospiti a sorpresa, cioè tutti noi e tutte noi. Ancora 9 giugno, spettacolo teatrale a San Lorenzo con Tamara Bartolini, Michele Baronio e, dai, diciamole bene, Fino all'ultimo respiro, storie e video partigiani, quindi 9 giugno, non c'è scritta l'ora, ve la faremo sapere senz'altro al più presto. E poi il clou, ovviamente. 16 e 17 giugno, ex Snia Viscosa. 16 giugno, due palchi praticamente, perché ci saranno appunto da una parte dei teatranti e dall'altro un parco dove si suona. Quindi l'ostresalto, scasso, rancore, polemica. Prima il Trouble Band, Wongiaggia e Muro del Canto. Il giorno dopo, 17 di giugno, Espana Circodesche, Latin Rock Punk, 44 Leningrad, anche detti qua dalle nostre parti 44 Leningrad. E poi Fatur, direttamente dai vecchi CCCP, quelli buoni. Non di quel signore che ha perso la Trebisonda. Lasciamo Wendy, che abbiamo ascoltato fino ad ora. E ce ne andiamo così questa sera. You fed it all the time, but it hadn't grown so thin. A light the light can't find, the shadow wrapped in skin. Let it fall. Tell you tell the truth. No matter what they say, there's no reward for pain. Noi siamo quasi alla sigla, ci risentiamo mercoledì prossimo ancora con ospite, stavolta non vi dico niente. Sister, repair street.